Milano. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Confermata pochi istanti fa la morte di Fabrizia Di Lorenzo, la ragazza italiana che ha perso la vita nell'attentato di Berlino. Due blitz intanto in Germania, quattro fermati a Dortmund, poi rilasciati, ricerche nel campo profughi dove viveva l'attentatore. Amri era stato in Italia a lungo ed è qua che potrebbe essersi radicalizzato, dice il fratello dalla Tunisia. Era segnalato dai servizi americani e nella no-fly list. L'ex presidente Lombardo Formigoni, condannato a 6 anni di carcere per il caso Maugeri, interdetto dai pubblici uffici, i giudici ordinano che versi 3 milioni alla regione. Monte dei Paschi verso l'intervento dello Stato dopo che il fondo del Qatar si è sfilato dall'aumento di capitale, titolo ancora singhiozzo sui mercati oggi. Aveva imposto il certificato medico ai migranti che sostassero sul territorio, multato per discriminazione razziale il sindaco di Alassio. Dopo 55 anni chiuso l'ultimo cantiere della Salerno-Reggio Calabria, completata, ma non l'abbandoniamo, dice il presidente dell'ANAS. Troppo rumorosi, un giudice fa chiudere il parco giochi di un paesino in provincia di Verbania. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it invece se ci volete scrivere. In apertura naturalmente gli attentati di Berlino, le indagini e soprattutto la notizia arrivata, come già si diceva nei titoli, pochi istanti fa. Adriana Fracchia, buongiorno. Sì, buongiorno agli ascoltatori, a te Simone. Come hai detto tu, apriamo con la notizia confermata dal ministro degli esteri Alfano che tra le vittime della strage c'è proprio l'italiana Fabrizia Di Lorenzo. E intanto a 3 giorni dall'attentato ha riaperto il mercatino di Natale di Berlino, almeno un quarto delle bancarelle ha ripreso l'attività e lungo i perimetri del mercato sono stati messi una serie di cubi di cemento per motivi di sicurezza. In un tweet la polizia di Berlino ha scritto: la piazza è stata restituita alla popolazione. E intanto continua invece la caccia ad Anis Amri, il giovane tunisino in fuga dopo la strage, nei confronti del quale è stato emesso un mandato di cattura internazionale, oltre ad una ricompensa da 100.000 euro a chiunque offra informazioni utili al suo arresto. Le sue impronte sono state intanto rinvenute sulla portiera del TIR, lato guidatore utilizzato per la strage. Amri, che aveva cercato su internet istruzioni per costruire ordigni esplosivi, aveva comunicato almeno una volta con lo Stato Islamico. Secondo il New York Times era stato inserito nella fly list statunitense ed era nei radar delle agenzie di intelligence americane. Oggi intanto la polizia tedesca ha perquisito il centro profughi ad Emmerich sul Reno, in Nord Reno-Westfalia, al confine con l'Olanda, mentre in un altro blitz antiterrorismo a Dortmund ha arrestato 4 persone che però sono già state rilasciate dopo un breve interrogatorio. Amri si era forse radicalizzato in un carcere italiano dopo che aveva lasciato la Tunisia, lo ha detto uno dei suoi fratelli rintracciato proprio in Tunisia, e se sarà provato che è coinvolto non farà più parte della nostra famiglia, ha aggiunto il fratello, che lo invita a costituirsi. E per ora è tutto. E grazie Adriana Fracchia per questo aggiornamento su questa parte, sulla parte che riguarda la permanenza di Amri in Italia. Torneremo più avanti e sull'ipotesi di radicalizzazione in carcere parleremo con una delle associazioni di volontariato che lavora nel carcere del Lucciardone di Palermo, dove Amri era stato detenuto per 4 anni. Siamo invece al fronte italiano della sicurezza. Barriere anticamion, unità speciali antiterrorismo poco visibili ma pronte a intervenire, controlli rafforzati soprattutto nelle piazze, nei mercatini e ancora possibilità, in assenza di adeguati livelli di sicurezza, di vietare concerti, fiere, manifestazioni. A rischio potrebbero essere anche alcuni spettacoli di Capodanno. Dopo Berlino dunque ogni appuntamento viene ora analizzato con la massima attenzione dai prefetti secondo le direttive impartite dal Viminale, e all'eventuale decisione di vietare un evento partecipa anche la polizia municipale, che viene coinvolta in tutte le iniziative di filtrazione dei luoghi pubblici, secondo il principio di una prevenzione collaborativa voluta dal ministro Minniti. E in caso di iniziative confermate ci saranno ostacoli mobili come barriere antisfondamento New Jersey in cemento armato, difficili da abbattere da parte di un TIR, mentre le semplici transenne saranno usate solo per i controlli a distanza. In particolare a Roma poi prorogate le misure straordinarie messe in campo per il Giubileo, potenziati soprattutto i controlli sull'ingresso di TIR in città. A Milano si stanno disponendo le barriere antisfondamento nei 10 punti più frequentati, così come anche a Bolzano, Trento, Venezia, Pisa, Firenze e Napoli. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E cambiamo decisamente argomento, siamo al Monte dei Paschi, l'intervento dello Stato è ad un passo. Potrebbe arrivare al più tardi entro domani il decreto legge del governo per l'intervento pubblico sulle banche, a partire dal Monte dei Paschi di Siena. Oggi alle 14 scade il termine dell'articolata ricapitalizzazione da 5 miliardi della banca senese e si tireranno le somme. Al momento si profila un flop. Monte Paschi ha incassato oltre 2 miliardi dalla conversione delle obbligazioni subordinate in azioni, ma l'aumento di capitale vero e proprio non decolla. Questa sera, a mercati chiusi o al massimo domani mattina, dovrebbe quindi riunirsi il Consiglio dei Ministri per approvare un provvedimento che disporrà la ricapitalizzazione preventiva della Banca di Siena. Dopo il via libera del Parlamento ad aumentare il debito pubblico fino a 20 miliardi per aiutare le banche in difficoltà, il governo si appresta infatti a intervenire in soccorso della Banca Senese, rispettando le linee guida di Bruxelles. Allo studio diverse ipotesi per tutelare i piccoli obbligazionisti. Lo Stato potrebbe acquistare tutti i titoli, integrare le perdite dei risparmiatori o limitarsi a rimborsare i più deboli. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per quanto riguarda l'andamento del titolo in borsa, oggi ci sono state fortissime oscillazioni, una serie di sospensioni per eccesso di volatilità. In questo momento Monte dei Paschi cede lo 0,18% in una giornata che vede gli indici positivi sui mercati. Torneremo come sempre alle 13.30 con i colleghi di Radio Core. Sempre per quanto riguarda l'economia e la finanza, un'intesa, ed è notizia di poco fa, è stata raggiunta con i soci di Alitalia sul finanziamento della seconda fase del piano industriale. Il consiglio di amministrazione era aperto da diversi giorni e l'accordo tra i soci, in particolare Intesa San Paolo, Unicredit ed Etihada, sarebbe stato siglato all'alba. E a proposito di accordo, ne è stato raggiunto uno per i lavoratori dei call center Almaviva, ma a firmare sono stati solamente i sindacati di Napoli, non quelli romani. Due destini diversi dunque per le sedi. Solo a Napoli è stata raggiunta l'intesa provvisoria fino ad aprile 2017 per evitare i licenziamenti di 843 dipendenti. Ci sarebbe dunque una spaccatura nello stesso sindacato per la sede romana, nella quale i rappresentanti della RSU avrebbero deciso di non firmare, in divergenza con gli stessi vertici sindacali. Anna Marino ha chiesto a Massimo Cestaro, rappresentante del sindacato SLC presente alle trattative notturne, il perché della spaccatura. Napoli ha valutato che comunque questo accordo consentisse la possibilità di prendere ancora tempo, perché altrimenti oggi, anzi a mezzanotte di ieri, scadeva la procedura, e quindi scadendo i 75 giorni di procedura partivano le lettere di licenziamento. E quindi la RSU di Napoli ha valutato che questa possibilità di guadagnare ancora un po' di tempo fosse utile per tentare di trovare un'intesa, sapendo tutti che sarà un'intesa molto molto complicata. E per quanto riguarda Roma, la sede di Roma, scattano i licenziamenti da oggi? Purtroppo penso proprio di sì. Naturalmente, questo deve essere chiaro, noi faremo tutto il possibile. Questa decisione ha creato una spaccatura nel sindacato tra i vertici e questa rappresentanza? C'è stata una profonda diversità di valutazione sulla fase. La RSU di Roma ha preso una decisione che va rispettata. La mia opinione, se avessero assunto una posizione diversa, saremmo stati nelle condizioni di prendere tempo anche per il sito di Roma. È del tutto evidente che la situazione oggi è un po' più complicata rispetto a ieri. E del resto lo conferma anche il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che è intervenuto pochi istanti fa su questi temi. Dice: a questo punto non c'è alternativa ai licenziamenti. È arrivata la sentenza per l'ex presidente lombardo Formigoni. Quelle vacanze esotiche, quei tuffi da yacht di lusso, quei finanziamenti per il meeting di CL, altro non erano che il prezzo della corruzione, e per questo ora arriva la condanna. 6 anni di carcere per Roberto Formigoni, altrettanti di interdizione dai pubblici uffici e la confisca di 6 milioni e 600 mila euro. Questo stabiliscono i giudici di primo grado di Milano nel processo Maugeri, lo scandalo cioè dei fondi distratti dalla fondazione che travolse nel 2012 l'ex governatore della Lombardia e attuale senatore di NCD. Per lui la procura aveva chiesto 3 anni in più per associazione a delinquere e corruzione. Roba da fiction, l'aveva bollata all'epoca il Celeste, accusato dai PM di aver tra il 97 e il 2011 favorito dal Pirellone l'Istituto Pavese e l'Ospedale San Raffaele con delibere cucite ad hoc per avere rimborsi indebiti per 200 milioni. Anzi, le delibere erano da loro stessi preparate, come ammisero a verbale dei testimoni. In cambio di tutto questo, milioni di euro uscivano dalle casse della Maugeri attraverso il faccendiere Dacò e l'ex assessore Simone finivano per finanziare i sollazzi di Formigoni e dei suoi familiari costati 8 milioni, ricostruisce il PM nella requisitoria. Formigoni non c'è nell'aula del tribunale al momento della lettura della sentenza, ma subito il verdetto rimbalza al pirellone. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Roma ora per le convulse ore del sindaco Raggi e della giunta capitolina. Il punto di oggi, Vincenzo Miglietta. Ciao, buongiorno. Sì, buongiorno. Giunta Raggi, Simone alle prese da una parte con le difficoltà di una gestione della città che si conferma non delle più semplici e dall'altra con tutto ciò che comporta sul Campidoglio la vicenda Marra, con da ultimo l'intervento dell'autorità anticorruzione. Quest'ultima ritiene configurabile il conflitto di interessi per l'ex braccio destro della sindaca per la nomina del fratello alla direzione turismo, ma il risvolto più pesante sarebbe proprio per la Raggi. Secondo l'ANAC sapeva di quel conflitto e lo avrebbe ignorato. Gli atti dell'autorità guidata da Cantone e trasmessi alla Procura di Roma aprirebbero allora la strada alla possibilità che la Raggi venga iscritta nel registro degli indagati. La sindaca mostra intanto tranquillità, il lavoro va avanti, ripete ai suoi collaboratori, forte anche del sostegno che ufficialmente le arriva da Grillo come esempio dell'anticasta. A parlare oggi è poi Daniele Frongia, ora assessore allo sport. Frongia nega di essere stato cacciato, ho lasciato io il posto di vice sindaco. Quanto a Marra spiega: non è vero che l'ho presentato io. Dicevamo ad inizio della diretta che a questa vicenda si affiancano le difficoltà quotidiane della gestione della città. Ultima polemica, quella legata al concertone di Capodanno. Ormai è ufficiale, quest'anno non si farà. Alcuni degli sponsor che avrebbero dovuto coprire le spese hanno fatto un passo indietro. È tutto, linea allo studio. E grazie dunque anche a Vincenzo Miglietta. Andiamo all'estero. Mentre si stimano 34.000 persone evacuate dalla sola Croce Rossa d'Aleppo, 35.000 miliziani uccisi da 18.000 raid russi, e oggi è quello che è stato definito l'Aleppo Day da parte dell'UNICEF, nel quale si segnalano 4.000 bambini ancora bloccati ad Aleppo Est, l'attenzione torna a concentrarsi su un'altra roccaforte dell'ISIS, questa volta in Iraq, Mosul. Sentiamo il punto. Ci sono anche 4 operatori delle Nazioni Unite tra le vittime degli attacchi avvenuti oggi in Iraq, a Mosul. 3 autobombe sono esplose nella città, roccaforte irachena dell'ISIS, in cui lo Stato Islamico sta combattendo contro le forze governative. L'attacco è avvenuto a Goji Ali, uno dei quartieri che le forze lealiste hanno strappato al controllo dei jihadisti. Ci sarebbero almeno 25 vittime e decine di feriti, tra cui forze di sicurezza, cooperanti e civili. Le Nazioni Unite denunciano che l'ISIS sta attaccando i civili in fuga dalla città. Le persone in attesa di soccorso sono già vulnerabili e necessitano di aiuto. Dovrebbero essere protette, non attaccate, ha dichiarato Liz Grand, coordinatrice per l'azione umanitaria dell'ONU in Iraq. I terroristi dello Stato Islamico stanno compiendo ripetuti attacchi suicidi contro l'esercito iracheno per rallentare la sua avanzata a Mosul. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In questa settimana, ve lo abbiamo detto, abbiamo deciso in vista del Natale di raccontarvi un po' come stanno andando le cose nei comuni terremotati e anche di stargli vicini in qualche modo, anche riportandoli alla ribalta per evitare che siano abbandonati, cosa che continueremo a non fare. Siamo stati a Norcia, siamo stati ad Amatrice, siamo stati a Visso, oggi a Castel Sant'Angelo sul Nera col sindaco Mauro Falcucci. Sindaco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e grazie per il collegamento, grazie. Allora, come vanno le cose? Oggi la giornata sole è bella, nel senso che il tempo meteorologico c'è il sole, quindi temperatura fredda al mattino, ovviamente a 800 metri siamo a meno 10, adesso è un momento di caldo. Andiamo, sono momenti, il Natale come ci ricorda, come tutte le persone care, i momenti più belli, quest'anno un po' sofferenti. Vediamo, abbiamo anche noi acceso le luminarie come segno di luce, di futuro, di speranza, di voglia di ritornare. Però ovviamente siamo un po' amari, avviliti, è normale, però vediamo questo bicchiere di spumante mezzo pieno, proviamo a vederlo. Casette sono arrivate? Allora, noi non abbiamo chiesto i moduli come erano stati proposti, perché abbiamo tutti, purtroppo, e questo comune è completamente distrutto, siamo al 98% di crolli, quindi non abbiamo nessuno se non 5 allevatori che permangono sul territorio per ovvi motivi, insieme a noi, che abbiamo gli uffici, siamo dentro dei container con i volontari e i vigili del fuoco che quotidianamente accompagnano i nostri cittadini che vengono per vedere se è possibile recuperare qualcosa. Purtroppo tutte macerie, quindi sono tutti lungo la costa. Il 26 faremo anche qui una, che era la giornata del nostro patrono, un pranzo tutti insieme per per metterci insieme e per sperare ancora di più. Verrà qualcuno per la festa del patrono dalla costa? Sì, dalla costa saremo una 70-80 persone che vengono per presenza e quotidianamente ci vengono a trovare, quindi diciamo che si mantiene questo condono ombelicale e questa voglia di tornare. Contiamo e abbiamo definito le aree per posizionare le strutture abitative di emergenza, le famose SAE o casette, che dovrebbero arrivare come da impegno in primavera o in tarda primavera, e contiamo, ecco, da quel periodo di ricominciare a vivere portando il lavoro, che è la cosa più importante. Il nostro è un appello che facciamo, e approfitto di voi, di questa cortesia, agli imprenditori, anche imprenditori marchigiani che hanno un cuore e una capacità imprenditoriale molto forte, di vedere che di aiutarci a ristabilire. Noi abbiamo la fortuna di avere uno stabilimento d'acqua minerale che è ripreso a lavorare, 22 persone, però se non portiamo il lavoro è difficile anticipare i tempi. Con il lavoro, quindi con una piccola attività compatibile, siamo nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, potremo essere agevolati e dare fiducia, aprendo a tutti. Apriamo anche a persone che hanno voglia di rimanere in Italia, che non sono italiani, quindi per noi il termine extracomunitario non è un termine forte, a condizione che si rispettino le regole. Allora, Sindaco, grazie davvero e in bocca al lupo. Noi siamo con voi e vi siamo vicini. Mauro Falcucci, Sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera, il prossimo appuntamento domani con i comuni terremotati. Allora, noi adesso dovremo andare a vedere che cosa sta succedendo sulla Salerno-Reggio Calabria, dove sono finiti i cantieri dopo 55 anni, però lo facciamo, visto che siamo in tema, dopo il traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati dell'attentato a Berlino. È arrivata poco fa la notizia che la ragazza italiana Fabrizia Di Lorenzo, che finora era data per dispersa, è ufficialmente morta. Intanto proseguono le indagini con quattro fermati a Dortmund e poi rilasciati, mentre si indaga sul passato italiano di Amri, il presunto attentatore. Abbiamo parlato della sentenza per l'ex presidente Lombardo Formigoni, condannato a 6 anni, ci siamo occupati del Monte dei Paschi e della vicenda Almaviva. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo in realtà da un punto imprecisato, perché dovremmo essere in linea con Andrea Ferro, che è in viaggio sulla Salerno-Reggio Calabria a chiusura dei cantieri. Andrea, buongiorno, eccoci. Sì, buongiorno Simone, vi parlo dal pullman sul quale stamane prima dell'alba siamo partiti da Roma. Attualmente mi trovo all'altezza di Fracineto, in provincia di Cosenza. Durante la prima parte del viaggio all'altezza di Salerno, sul pullman sono saliti il ministro Graziano Del Rio e il presidente di ANAS Gianni Vittorio Armani, ed è iniziato così il lungo viaggio sulla 3, l'eterna incompiuta, l'autostrada degli scandali, della 'ndrangheta, degli controllati dalla criminalità organizzata. In sottofondo sentirete il commento dei dirigenti dell'ANAS che ci aggiornano sull'andamento di questo viaggio e sui vari passaggi che incontreremo durante il nostro transito lungo la 3. Il momento clou stamane è stato intorno a mezzogiorno, quando ci siamo avvicinati e poi siamo transitati sul viadotto Italia, quota 1050 metri, il più alto d'Italia, il secondo in Europa, e poi siamo entrati nella galleria Laria, l'ultima grande opera del programma di ammodernamento. Il nostro pullman è stato il primo a transitare tunnel. Va detto che sono in cantiere interventi ancora per una 50 di chilometri, poi da simbolo della ritardatezza italiana in termini di infrastrutture, la Salerno-Reggio Calabria diventerà Smart Road, cioè sarà la prima autostrada digitalizzata, come ha ribadito oggi il presidente di ANAS Armani. Abbiamo intervistato il ministro Graziano Del Rio, potete mandare in onda l'intervista. Per il momento dal pullman è tutto a voi. La Salerno-Reggio Calabria, la strada sulla quale stiamo transitando, è stata per decenni il simbolo delle arretratezze del nostro sistema infrastrutturale e non solo, pensiamo alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti. Oggi è una giornata importante. Una giornata importantissima che dà il segno di una svolta nel sistema infrastrutturale italiano. Non è più l'eterna incompiuta, è una strada perfettamente funzionante con standard di sicurezza europei, con le migliori tecnologie in gran parte del tracciato, quindi più sicurezza, più possibilità di collegamenti sicuri, quindi come ho sempre detto le infrastrutture servono allo sviluppo, se le infrastrutture funzionano è anche più facile portare sviluppo e lavoro. E con il nostro giro per l'Italia ci spostiamo a Palermo per parlare però di terrorismo e per parlare della vicenda di Berlino, perché come è risultato, come avrete letto in parte sui giornali e sentito anche in GR24, Amri, il presunto terrorista, il presunto attentatore di Berlino, era stato in Italia a lungo, era arrivato in Italia, dopodiché, dopo aver dato sostanzialmente fuoco insieme a tre connazionali al CIE di Lampedusa, ad alcuni punti del CIE di Lampedusa, era stato condannato ed era stato in carcere. Era stato in carcere a Palermo, a Lucciardone, dove era stato per 4 anni. Noi siamo in linea con Maurizio Artale, che è presidente dell'associazione Padre Nostro, che cos'è? Una delle associazioni di volontariato che lavorano nelle carceri, e sono tante. L'associazione Padre Nostro lavora appunto a Palermo. Artale, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, naturalmente io immagino che non abbiate particolare memoria, o non so se i vostri operatori abbiano particolare memoria di questa persona, e questo glielo chiedo come prima domanda introduttiva. No, purtroppo no. Non avete memoria di questa persona. Complessivamente c'è un punto che ci interessa. Oggi il fratello di Amri, raggiunto in Tunisia, dice: può darsi che si sia radicalizzato in Italia. Questo è un tema che abbiamo toccato molto spesso. Le carceri sono molto a rischio da questo punto di vista. E qual è la situazione a Palermo? Ma guardi, per quello che ci costa a noi, almeno da noi non è così, quindi non c'è questo rischio di radicalizzazione all'interno delle carceri palermitane, pure perché rispecchia un poco quello che è la cittadina, quindi Palermo è una città accogliente e lo manifesta anche all'interno del carcere, e non si creano dei ghetti, ecco, attraverso, come dire, le varie etnie, in modo che loro sono separati e non fanno vita carceraria come una agli altri. Quindi io penso che sia stato difficile che lui proprio abbia avuto questo processo di radicalizzazione all'interno del carcere del Lucciardone. Le sembra difficile perché i segnali che avete raccolto sul fatto che ci possa essere, come dire, qualcuno legato all'Islam radicale all'interno del carcere di Palermo, non li avete ricevuti voi, almeno come associazione. Poi magari naturalmente gli inquirenti vedranno e capiranno, però voi non li avete avuti dunque? No, non l'abbiamo avuto, e manco la sensazione. Noi accogliamo diverse cittadini appunto musulmani all'interno del centro Padre Nostro, dove diamo la possibilità di scontare le pene alternative oppure anche i semplici permessi premi. Loro, non avendo familiari a Palermo, non potrebbero usufruire di alcuni permessi premi, e noi gli diamo la possibilità di venire da noi, e noi lo vediamo, sono molto rispettosi nei nostri confronti. Noi siamo un centro cattolico cristiano fondato dal Beato Giuseppe Puglisi, e quindi non abbiamo avuto, ecco, questi segnali. Anche nelle attività che facciamo all'interno del carcere non abbiamo notato, ecco, particolare, come dire, c'è segni di radicalizzazione. Quindi non sono dei fanatici, almeno da quello che noi vediamo nelle attività dove loro partecipano e quando loro vengono a scontare la pena da noi, oppure anche dei permessi premi. Artale, senta una cosa, quando escono dal carcere queste persone, che sono, come in questo caso, non sono profughi, non possono essere né profughi né richiedenti asilo, perché magari vengono appunto dalla Tunisia, non vengono dalla Siria o magari dall'Iraq, o hanno altre motivazioni particolari per le quali richiedere asilo. Che cosa gli succede sostanzialmente? Loro sostanzialmente gli danno un foglio di via e loro entro 3 giorni devono lasciare il paese. Così. Il problema è che non vengono accompagnati. Perché certo, ancora non ci sono questi trattati fra le nazioni che garantiscano, ecco, che ci sia un trasferimento direttamente nel paese nativo. Sì, perché poi in questo caso Amri, appunto, a tutti gli effetti era stato espulso. Lo Stato aveva tentato di rimandarlo in Tunisia, la Tunisia non aveva accettato o non era riuscita a identificarlo. Questo non è ancora chiaro, le indagini vanno avanti da questo punto di vista. Gli viene dato un foglio di via, gli dicono entro 3 giorni devi lasciare il paese. Esatto. E poi com'è insomma. Ma non succede mai, non succederà mai. Primo, perché questi non hanno fondi, non hanno soldi. E quindi come farebbero, ecco, ad andare via? Punto primo. Punto secondo, non hanno punti di riferimento. Allora è possibile che sia fuori dal carcere che hanno questo processo di radicalizzazione, perché magari vanno nei luoghi frequentati da altre persone come loro, e che quindi creano quella sussidiarietà, purtroppo devo dire, in negativo, e che gli diano delle basi di appoggio. ma sicuramente non glieli danno per dargli soldi per ritornare al proprio paese. Ah, no, certo. ma per dargli copertura o inserirli in percorsi appunto di delinquenza. C'è un sistema evidentemente a tale da questo punto di vista che non funziona o funziona molto male, del quale immagino che voi siate discreti testimoni, essendo la Sicilia un crocevia da questo punto di vista, no? Sì, questo sì, ma infatti ci ha tentato qualche anno fa il ministro di fare questi accordi internazionali nel dire che chi ha una cittadinanza deve scontare la pena all'interno del proprio carcere. Purtroppo è un'utopia poter realizzare questa cosa, ma a meno che ci siano dei patti bilaterali, dove almeno si garantisca che scontata la pena, ecco, il detenuto, non più detenuto, quindi cittadino libero, possa essere accompagnato direttamente al proprio paese, cioè imbarcarlo in un aereo, in un treno, in una nave e portarlo direttamente al proprio paese d'origine. La ringrazio. Grazie Maurizio Artale per essere stato con noi, presidente dell'associazione Padre Nostro, ex presidente della conferenza regionale Volontariato e Giustizia Sicilia. Noi continuiamo a parlare di immigrazione per una vicenda che ci ha incuriosito e della quale in realtà ci eravamo già occupati. Nel periodo della crisi più intensa a Ventimiglia, con i migranti che cercavano di attraversare il confine con la Francia, situazione non ancora risolta, tra l'altro ne abbiamo parlato qualche settimana fa proprio col sindaco di Ventimiglia, il sindaco di Alassio è Enzo Canepa decise di fare un'ordinanza particolare. In questa ordinanza si diceva: non possono sostare sul territorio i migranti che non presentino un certificato medico che dice che sono esenti da malattie contagiose. Ora Canepa, che è in linea con noi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Si è beccato una multa da quasi 4.000 euro per discriminazione razziale. Sì, mi hanno notificato questo provvedimento del GIP che dice che io sono l'ordinanza che di razzista, per cui mi danno un mese commutato in 3.750 euro di multa e 15 giorni di tempo per fare opposizione. Noi abbiamo protocollato questa mattina in cancelleria, abbiamo depositato questa mattina la nostra opposizione, perché con tutte quello che si poteva fare, cioè o chiedere patteggiamento oppure chiedere i servizi socialmente utili, non abbiamo voluto intraprendere questa strada, perché noi siamo convinti della bontà della nostra ordinanza, che non è un'ordinanza razzista ma è un'ordinanza sanitaria, e la porteremo, la difenderemo fino in fondo, affronteremo il processo dove sono convinto che riusciremo a dimostrare la nostra totale estraneità a qualsiasi forma di razzismo. Allora, mi scusi Canepa, il fatto che abbia una forma di ordinanza sanitaria non c'è il minimo dubbio. È chiaro che sotto la forma dell'ordinanza sanitaria il GIP ci ha intravisto un elemento razzista, cioè mi sembra di capire che il concetto sia ma perché chiedi questo certificato ai migranti o profughi o immigrati, chiamateli come volete, e non lo chiedi a tutti gli altri cittadini? Mi sembra di aver capito, ma che la ratio sia questa, sì. No, ma è una domanda proprio. Sì, ma noi nell'ordinanza avevamo specificato determinate aree, tra cui anche Sud America c'era, perché erano le aree in cui non veniva eseguita una profilassi adeguata per poter estirpare determinate malattie. Noi avevamo, proprio lei ha citato poco fa a Ventimiglia, si erano verificati proprio in quel frangente dei casi di scabbia sia a Ventimiglia che a Bordighera, se non erro, e forse anche a Sanremo, però non sono sicuro. Io eravamo ai primi di luglio, con la stagione balneare in pieno fermento, e quello che ho sempre sostenuto è stato questo: se io fossi un genitore, un nonno con dei figli, dei bambini e nipoti, e c'è una società, una località turistico balneare in cui ho intenzione di andare ma c'è la scabbia, io non ce li porto, anche se la scabbia ormai viene curata e guarita, però sono quelle cose che non lasciano una immagine positiva della città, ed era stata questa la cosa che ci aveva indotto a prendere quell'ordinanza. Poi ma quindi era limitata al periodo estivo? No, è senza. No, l'ordinanza è sempre in vigore. È sempre in vigore. L'ordinanza è sempre in vigore, ma noi non abbiamo mai assolutamente precluso l'accoglienza a nessuno. Voi avete un sistema di accoglienza, cioè ci sono delle persone che stanno sul vostro territorio, sindaco? No, noi non abbiamo persone che vivono nel nostro territorio semplicemente perché non abbiamo nessuna struttura in grado di ospitarli, non abbiamo nessun appartamento o qualsiasi cosa di proprietà del comune che possa ospitare queste persone, assolutamente no, se no l'avremmo fatto, però non abbiamo assolutamente il posto dove poterle accogliere. Io vorrei che la nostra città fosse ricordata per la bellezza che ha, per l'accoglienza che dà a tutti i turisti e per gli eventi che fa, non per un'ordinanza balneare, per un'ordinanza sanitaria. Questo non è assolutamente lo scopo dell'ordinanza, qualcuno accusato di forse fare pubblicità. Assolutamente no. Sì, però lo potrà immaginare, gli ascoltatori si stanno dividendo tra chi dice che lei è un razzista, qualcuno dice addirittura aberrante, altri che dicono grandissimo. È già, insomma, quando l'ha fatta, lo sapeva alla fine che sarebbe un po' uscita sui giornali questa storia qua. Sapevo che mi avrebbe creato dei problemi, più che fare pubblicità, sapevo che mi avrebbe creato dei problemi, però la tutela della nostra cittadini va oltre. Io sono disposto ad affrontare tutto quello che mi capiterà per difendere la nostra città e i nostri cittadini, quindi io questo sono sereno, perché il mio mandato è quello di amministrare questa città insieme alla maggioranza di cui ho l'onore di guidare, però determinato a conseguire il bene della nostra città e dei nostri turisti. Ultima domanda che qualche ascoltatore mi scrive e mi corregge: si dice Canepa o Canepa? Canepa. Allora avevano ragione loro e mi sono sbagliato io. Grazie a Enzo Canepa, sindaco di Alassio, per essere stato con noi. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi riprendiamo il nostro giro per l'Italia. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: è stata identificata Fabrizia Di Lorenzo, che è dunque tra le vittime della strage di Berlino. Arriva il cordoglio naturalmente del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio Gentiloni. Intanto due blitz in Germania, 4 fermati a Dortmund, poi rilasciati a ricerca nel campo profughi dove viveva l'attentatore, il tunisino Amri, che aveva vissuto a lungo in Italia. L'ex presidente lombardo Formigoni è stato condannato a 6 anni di carcere per il caso Maugeri, interdetto dai pubblici uffici. I giudici hanno ordinato che versi 3 milioni alla regione. Monte dei Paschi, si va verso l'intervento dello Stato dopo che il fondo del Qatar si è sfilato dall'aumento di capitale. La borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Effetto giorno. Partiamo da questo titolo del quotidiano La Stampa: i bimbi fanno troppo rumore e fanno chiudere il parco giochi. Una storia tristissima che arriva da Premosello Chiovenda e siamo in provincia di Verbania, siamo in Piemonte, la nostra prossima tappa del nostro giro per l'Italia. E chi sono queste due persone che hanno fatto chiudere il parco giochi? Sono due persone che si lamentavano del rumore, hanno sporto una trentina tra querele e denunce, sono andati in giudizio e alla fine hanno vinto e questo parco giochi deve chiudere. Siamo in linea con il loro avvocato Marco Bigi. Buongiorno avvocato, benvenuto. Buongiorno a lei, grazie per avermi invitato. Allora, ma i suoi clienti, ma che tristezza, guardi, quando ho letto il titolo mi sono abbacchiato, e poi ho 3 figli, quindi mi pesa particolarmente. Com'è andata? Beh, esordisco dicendo che anche il giudice ha 3 figli, quindi parto dalla fine. Comunque, no, mi rendo conto che l'impatto mediatico della sentenza sia stato, per i non addetti ai lavori, eclatante, ma in realtà trattasi di normale vicenda giudiziaria in tema di immissioni sonore, come previsto dal Codice Civile, le quali provengono in questo caso da un parco giochi realizzato dal Comune nel 2011 sotto le finestre dell'abitazione dei miei clienti. Questi sono i fatti. Queste emissioni sonore, giudicate oltre il livello di tollerabilità, sono generate da avventori frequentanti il parco sia di giorno che di notte, perché trattasi di parco assolutamente non recintato e quindi facilmente accessibile dalla vicina via pubblica. Sì. Quindi è una questione di sicurezza prima di tutto. Tengo a precisare, di sicurezza, avvocato, di sicurezza a Premosello Chiovenda. Ma, cioè, ma dico, i, di sicurezza mi perdoni, me lo dirà. Gli atti delinquenziali si svolgono anche nei paesi. E anche, sì, ha ragione, mi scusi. È il gusto, quindi, il gusto della battuta, è corretto, prego. È corretto, perché ripeto, mi rendo conto che l'impatto è stato devastante. Tengo a precisare, a scanso di equivoci, che le predette emissioni sono state anche valutate dal Tribunale all'esito di ampia istruttoria, comprensiva di escussione testimoniale e di ben 2 perizie fonometriche, cioè una di parte e una licenziata dal Tribunale, da cui è risultato il superamento della soglia di ben 30 volte il limite della normale tollerabilità, cioè 1000 volte superiore al rumore di fondo. Quindi di fatto è un calcolo logaritmico. Sì, però, sì, è un esatto, è un calcolo algoritmico che però si basa sul rumore di fondo, e il rumore di fondo a Premosello Chiovenda sarà diverso rispetto a quello ma che possiamo trovare nel centro di una grande città. Ma infatti i parametri di legge contemplano il superamento rispetto al rumore di fondo, quindi c'è un percentile, e quindi non entro nel merito, ma i rumori rilevati sono al netto del rumore di fondo, sì, ovviamente sono quelli in eccesso. Ma poveri bambini, che... Bigi, però poveri bambini, scusi. Ma guardi che contro, allora, assolutamente, i miei clienti non hanno mai richiesto alcuna chiusura del parco, ma hanno sempre cercato un accordo che assicurasse un equo contemperamento degli interessi sia prima che a maggior ragione durante il giudizio. Le cito due episodi giudiziali che forse fanno luce e servono poi sì, a chiarire bene quale, rapidamente se riesce, sì, quale in ottica natalizia sia il vero erode, mi perdoni il termine, visto che sono stati etichettati così i miei clienti e visto che siamo in un'ottica natalizia. Ordinanza dell'8 ottobre 2015 del Tribunale che prevedeva semplicemente una proposta di definizione bonaria, quindi proveniva dal giudice, non dagli erodi, sì, oggi, che prevedeva la postazione da parte del Comune di una recinzione non chiusura, del parco giochi che lo perimetri prevedendo un ingresso dotato di serratura che consente il rispetto degli orari. All'udienza del 10 novembre 2015, stiamo parlando di più di un anno fa, fissata per la discussione, i miei clienti testualmente formulavano adesione alla proposta, quindi sostanziale rinuncia alla domanda, si chiudeva e il parco veniva mantenuto in loco. Il contemperamento degli interessi si perfezionava in che senso? Di giorno i miei assistiti accettavano il, tra virgolette, il rumore, perché molesti non sono, perché trattasi di bambini, ma di notte però si garantiva la sicurezza e la chiusura del parco. Ma perché ci andavano i ragazzi a far casino di notte, questa è la sostanza. Ci sono 30 denunce, ovviamente bambini non vanno alle 3 di notte. Voglio ben sperarlo. Può capire quale sia il misunderstanding, nel senso che di giorno nessuno si è mai lamentato dei bambini, ma era l'effetto notte che sarebbe stato risolto semplicemente apponendo una recinzione con orari certi di apertura e chiusura. Quindi fatti poi che di fatto sono stati confermati nella consulenza tecnica, il sindaco ha ritenuto di non aderire, di non ritenere possibile la chiusura del parco, sì. Cosa ha fatto il tribunale? È arrivato lui, ovviamente la sentenza scontenta tutti, come mi rendo conto, ma qualcuno doveva pur decidere, tant'è vero che a pagina 9 della sentenza si prevede una censura proprio della condotta processuale dell'ente locale, il quale testualmente si legge dalla sentenza: pure più volte invitato e compulsato a trovare una soluzione transattiva della vertenza, ha mostrato un atteggiamento di chiusura esponendo ragioni di indirizzo politico-amministrativo a fondamento del rifiuto. Senta Bigi, qualcuno qua ci chiede, qualche ascoltatore dice, ma non potevano mettere i doppi vetri? Ce l'hanno, perché fa freddo. Guardi che, cioè, non è questione dei doppi vetri, perché d'estate si è consentito almeno di aprire e areggiare i locali prima di soggiornarci. Cioè, voglio dire, d'estate i locali vengono tenuti aperti, di notte si ha diritto, credo come tutti, di dormire. Quindi, ma mi scusi, chiedo perché c'è anche un ascoltatore che ci scrive e che io non so se sia proprio del paese, no? Dice, guardate, non siamo stupidi, il parco lo hanno chiuso perché ci va la gente a spacciare la droga e a delinquere, è così? Ah bene, giuro che non è stato un nostro assoldato, però è così, ripeto, le 30 denunce fino a prova contraria non hanno subito né archiviazione allo Stato né abbiamo subito controquerele per calunnia o diffamazione, quindi ripeto, attualmente sono fatti al vaglio della magistratura, quindi ripeto, bisogna essere in sostanza, che dire, gli accordi bisogna farli in due, sinceramente sì, non comprendo cosa di più avrebbero potuto fare i miei clienti, più che accettare la proposta del tribunale che prevedeva la recinzione e non la chiusura del parco, ci tengo a precisare, con conseguente possibilità che il parco fosse mantenuto in loco, altro francamente non riesce ad immaginare. Ora, i risultati di mancato accordo, e concludo, per fatte colpa ovviamente non imputabili ai miei assistiti, sono davanti agli occhi di tutti e scontentano e quindi... tutti, ma sinceramente il tribunale non ha fatto altro che applicare la normativa del codice mi scusi, solo una domanda, ovviamente non può rivelare l'identità, però sono anziani? Non sono anziani, vero? Beh, giovani non sono, giovani sono anziani, con persone di 70 anni, ce lo chiede, quindi, qualche ascoltatore. E soprattutto sento che viene detto non avranno figli, poi i social network sono sotto gli occhi, non hanno figli, non hanno nipoti, questo è del tutto quei meccanismi loro, di cose. Ci tengo a tutelare la loro serenità. Grazie Marco Bigi, avvocato, per essere stato con noi. Per chiudere, parliamo di uno scontro che avviene in alta quota e che riguarda i rifugi. Montagne mie, vallate, voi siete mio tesoro. Lassù sulle montagne, in particolare quelle della Lombardia, è nata una piccola guerra. Forse dire guerra è troppo, diciamo un braccio di ferro. La materia del contendere è sulla regola di gestione dei rifugi, un patrimonio di oltre 150 strutture disseminate nella regione. Due scuole di pensiero si contrappongono, quella che ha un'immagine romantica del rifugio molto spartana e quella invece più comoda per chi vuole anche qualche comfort oltre ai piaceri della natura. La scintilla l'ha fatta scoppiare il nuovo presidente del CAI di Milano, Massimo Minotti, che ha revocato i contratti di gestione di 15 rifugi lombardi. Non solo, Minotti ha anche chiesto ai gestori nuovi progetti. Come dire, ragazzi, servono idee nuove, la montagna è bella, ma bisogna renderla ancora più invitante. Apriti cielo, la tradizione non si tocca, replicano i gestori, non siamo i ristoranti della Michelin, qui si viene con gli scarponi, non per fare l'idromassaggio. Per riportare la pace è stata creata addirittura una commissione ad hoc guidata dal presidente del CAI di Lecco, Alberto Pirovano. Bisogna capire dove vogliamo andare e uniformare gli stili di accoglienza, dice Pirovano. Speriamo bene, perché in Italia, quando si crea una commissione, viene voglia di scappare, sulle montagne naturalmente. Dario Ceccarelli, Radio 24, il Sole 24 Ore. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.